Il caffè della domenica di Maria Latella. Buona domenica, questa mattina il caffè lo prendiamo con Matteo Salvini, leader della Lega. Buona domenica Salvini. Buona domenica Maria, buon viaggio a chi ci ascolta. Allora, la politica sembra fibrillare, tanto per cambiare, soprattutto per due o tre cose. Intanto chi gestirà i soldi del Recovery Fund quando arriveranno, e a questo è collegato il tema del rimpasto. E comincerei da qui. Lei spesso ricorda che le priorità sono altre, sono appunto la pandemia con tutti i riflessi sull'economia che questo comporta, la situazione economica che non brilla. Secondo lei perché allora in questo momento i partiti sembrano interessati soprattutto al rimpasto? Ma i partiti in maggioranza, perché ovviamente alla Lega del rimpasto non può interessare meno di zero, perché sono consci di avere un governo che non ha l'altezza. Il presidente di Confindustria oggi sul Sole 24 Ore attacca il governo diviso su tutto, dicendo manca una visione, manca un progetto. Io ascoltavo il vostro giornale radio. Il fatto che il Consiglio dei Ministri approvi nelle prossime ore il quarto decreto ristori in 15 giorni, cioè quattro decreti diversi, ma si rendono conto che un'azienda, che uno studio professionale, che un commercialista, che una famiglia, che un negozio non possono stare dietro a un decreto nuovo di settimana in settimana? Quindi evidentemente, interpreto io da fuori, si rendono conto di avere una squadra che non è in grado di gestire l'emergenza, pensiamo al caos sulla scuola della Zolina, pensiamo agli scioperi degli avvocati in tanti tribunali italiani, con buona fede guarda e non muove un dito, e quindi immagino sia per questo che pensano a cambiare la squadra, ma spero che non sia il dibattito delle prossime settimane, perché vorrei parlare di soldi e di salute, anzi di salute e di soldi. Cominciamo con i soldi. Lei ha tirato la corda fino a quando le è stato possibile. Raccontano che fino all'ultimo ha pensato che la Lega si dovesse astenere sullo scostamento di bilancio, dopodiché però lo scostamento di bilancio l'avete votato proprio come voleva Berlusconi. Dunque, che cosa ha in mente Salvini? Proprio come volevano le partite IVA, gli autonomi e gli artigiani. Noi lo scostamento di bilancio l'abbiamo votato perché per una volta i soldi non finiscono in mance e mancette, in monopatti, nei banchi con le rotelle, ma finiscono nelle casse di quel popolo dei lavoratori autonomi e delle partite IVA dimenticato da mesi. Quindi un piccolo risultato, ma questo piccolo risultato è stato raggiunto, certo. Quegli 8 miliardi non cambiano la situazione. La manovra economica è più imponente, farà la differenza. Ricordo a chi ci ascolta quanto la maggioranza è convinta della bontà di questa manovra economica, visto che hanno presentato più di 3.000 emendamenti, solo PD, Renzi e 5 Stelle. Noi come Lega abbiamo ben chiare le priorità: taglio dell'IRAP, che è una tassa sulle perdite, quest'anno è impossibile da pensare, taglio dell'IVA per evitare le famiglie a consumare, e un anno di pace fiscale. Quindi non rinvio delle scadenze, ma annullamento delle scadenze e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Con queste proposte ci prepariamo al confronto. Certo, però intanto succedono cose anche mai viste nell'opposizione, nel centrodestra. Per esempio Brunetta, suo alleato, che tesse pubbliche lodi di Di Maio, lo definisce un vero leader che sta trasformando un movimento caotico in un partito strutturato e responsabile. Sembra quasi l'elogio per una nuova DC. A lei questi elogi Brunetta l'ha mai fatti? Campo bene lo stesso, lo sa. Mi alzo bene lo stesso la domenica e lavoro sereno anche senza elogi più o meno interessati e più o meno autorevoli. Non lo so, non commento, non faccio lo psicologo, quello che mi preoccupa oggi leggendo i giornali non è tanto questo quanto l'emendamento PD e LeU che riaffaccia la tassa patrimoniale, perché in un momento di crisi economica l'ultima cosa che penso serva all'Italia sono nuove tasse, anche perché costoro, e mi preoccupa, e dovrebbe preoccupare chi ci ascolta, ritengono ricchi coloro che fra casa e risparmio in banca hanno 500.000 euro. Ora, essendo gli italiani un popolo di risparmiatori e di proprietari di case, inventare una nuova tassa su questo presunto patrimonio che prevede è stata smentita. La patrimoniale torna tutte le volte, ma tutte le volte poi non succede. Quindi la tranquillizzerei su questo, Salvini. No, c'è un emendamento depositato, c'è un emendamento fra Togliani e Orfini, quindi se poi lo ritirano bene, ma il solo fatto di pensare da parte di partiti al governo in un momento di crisi sociale, sanitaria, economica e culturale come questa, con un Natale magro come mai in precedenza, di tassare chi ha una casa e chi ha dei risparmi è da crimine, è da arresto immediato. Senta, ieri lei ha incontrato i sindacati, vero? Sì, ho incontrato a distanza ovviamente, però è stata una discussione utile. Ha avuto a che fare con loro. È vero che le hanno chiesto di dare il via libera al MES? No, assolutamente. Anche perché abbiamo parlato di altro, comunque chiedetelo a loro, io non voglio fare il portavoce di altri. Hanno chiesto di sbloccare i 700 cantieri fermi in Italia, hanno chiesto di stabilizzare gli insegnanti precari perché altrimenti le scuole non ripartono e hanno chiesto di essere ascoltati, perché se l'ascolto quindi del governo... si è parlato di MES e lei conferma che la Lega comunque il MES non lo voterà. No, il MES non è stato accolto in nessun paese europeo, cioè il dibattito sul MES è un dibattito che non esiste in nessun altro paese europeo, tutti gli altri paesi europei finanziano questo momento di crisi ricorrendo o ai buoni del tesoro o alla banca centrale. Il MES è un organismo segreto, irresponsabile, civilmente e penalmente, amministrativamente, di fronte a tutte e a tutti, quindi noi ci infileremmo in un imbuto in cui nessun altro ci sta infilando, mentre possiamo fare in altra maniera, quindi non capisco veramente anche su questo vantaggi. Anche su questo il suo amico Brunetta la pensa in maniera totalmente diversa. Allora ci faccia capire perché. In una nota la settimana scorsa Berlusconi ha scritto: Forza Italia è, tra virgolette, è il centrodestra. Senza Forza Italia ci sarebbe solo una destra isolata come quella francese di Marine Le Pen. Voi state avviando un dialogo in Europa anche col PPE, quindi come fate? Non potete rompere con Forza Italia, se no il dialogo in Europa. E d'altra parte, per esempio sul MES, la posizione tra lei e Forza Italia sembra insanabile. Ma guardi, in democrazia hanno sempre ragione i cittadini. Io credo poco ai sondaggi, leggevo sulla prima pagina del Corriere della Sera di ieri che la Lega è in crescita, è sopra il 25%, è il primo partito nel paese. Altri hanno la metà o la metà della metà del consenso che i cittadini italiani danno alla Lega. Quindi, al di là delle interviste di Tizio Di Caio, teniamo atto di quello che dicono, pensano e vogliono gli italiani. Gli italiani vogliono un paese sano, che torna a fare figli, perché quest'anno rischia di chiudersi con una percentuale di figli più bassa della storia, a che esistono le statistiche, con una cifra inferiore ai 400.000 bimbi nati, e questo sarebbe un dato sociale ma anche economico devastante in prospettiva. Il dibattito sul MES non appassiona nessuno nei 27 paesi europei. Sì, poi però a un certo punto una decisione andrà presa e il voto ci sarà. No. Dunque, a se quel punto vi spaccherete, Lega da servono. Una parte, Fratelli d'Italia da una parte, Forza Italia dall'altra. Conte dice che il MES non serve. I 5 Stelle dicono che il MES non serve. Pezzi di PD dicono che il MES non serve. di cosa stiamo parlando? Se Forza Italia vuole il MES, ci spieghi le ragioni, che non mi convinceranno mai, e buonanotte al secchio. Ripeto, il mio problema è garantire un Natale sereno e possibilmente in salute e lavorativo agli italiani. Non litigare con Tizio, con Caio su un trattato surreale che non ha senso e non viene adottato in nessun paese europeo. Senta Salvini, un'altra cosa che sembra molto appassionare con largo anticipo la politica italiana è l'elezione del capo dello Stato. Lei ha fatto notare che il centrodestra ha il 46% dei voti necessari per eleggere il Presidente della Repubblica. Quindi questa volta potrebbe essere un esponente della vostra parte politica. Sui giornali si fanno tanti nomi, da Draghi, che viene sempre citato, alla Presidente Casellati, a Gianni Letta. Lei ha qualche idea? Ma a parte il fatto che il Presidente della Repubblica non dovrebbe essere di una parte politica, e secondo me PD e Renzi stanno pensando di tirare a campare per un anno e mezzo sulla pelle degli italiani per eleggere un loro presidente, come dicono, ecco, mi sembra veramente irrispettoso, volgare e poco produttivo. Io non ho in testa un mio presidente, sicuramente ci sono tante personalità al di sopra delle parti che potrebbero garantire di ricoprire quel ruolo in maniera assolutamente efficace e disinteressata. A proposito di Presidente della Repubblica, io sicuramente chiamerò l'attuale Presidente della Repubblica domani per chiedergli se ritiene normale, visto il momento che gli italiani stanno vivendo, che per tutta la settimana la Camera dei Deputati sia bloccata sui decreti sicurezza da cancellare per volontà della maggioranza di governo. Ora, non mi sembra che sia l'urgenza o l'emergenza del Paese cancellare i decreti Salvini, e vorrei sapere se è normale bloccare il Parlamento non sul Covid, non sulla manovra economica, non sul rilancio economico, ma sul riaprire i porti. Ecco, mi sembra surreale. E poi a febbraio 2022, quando si voterà, noi ci arriveremo con le idee chiare, però spero che ci si arrivi con un altro governo, perché se si va avanti in questa maniera qua non so che Italia sarà quella del febbraio 2022. Senta Salvini, l'ultima cosa che volevo chiederle è una cosa un po' più familiare, no? Lei sa che questo sarà un Natale in cui non potranno esserci tavolate, ed è giusto secondo me che sia così, abbiamo fatto tanti sacrifici finora. Lei andrà alla messa di Natale, anche se magari sarà anticipata alle 22, e con chi lo passerà? Con chi la passerà la sera di Natale? In quanti sarete? Coi figli, no, io la sera del 24 sono, noi festeggiamo il 25 di solito, ed è una giornata di famiglia, è la giornata dedicata ai bambini, quindi non so se si potrà andare a messa a mezzanotte, ci andrò, poi quando ci riesco lo faccio, se sarà vietato ovviamente non ci andrò. Ecco, no, non capisco veramente, anche qua, qualche ministro che si appassiona ad anticipare la nascita di Gesù Bambino invece di fare il suo lavoro, non capisco cosa cambi fra la messa delle 10 e la messa di mezzanotte, però se ci saranno le condizioni sanitarie, se la situazione Covid sarà meno grave, più sotto controllo di quanto non sia oggi, spero che non si rubi il sogno del Natale ai bambini. Non penso che nessuno stia pensando ai cenoni da 100 persone o ai veglioni, alla Fantozzi con le trombette e il complesso musicale, però neanche terrorizzare in anticipo, chiudere in casa in anticipo e negare il Natale in anticipo penso sia cosa da fare, anche perché il turismo invernale, ripeto, se le condizioni sanitarie lo permettessero, per l'Italia vale 20 miliardi. Non penso sia il momento di regalare 20 miliardi ai paesi europei che confinano con noi. Beh, anche la Francia chiude i suoi impianti sciistici, mi pare che solo la Svizzera in questo momento non abbia intenzione di adeguarsi. No, ma ripeto, se ci sono le condizioni sanitarie per uscire, è giusto che chi rispetta le leggi, può essere il bar, può essere il teatro, può essere la palestra o può essere la pista da sci, apra. Se non ci sono le condizioni, si sta chiusi in casa, appunto. Grazie, speriamo che ci siano. Io intanto penso che il caffè, lei l'abbia già preso, ne prendiamo un secondo No, adesso con aspettavo voi. Nessuno è perfetta che ci seguirà. Grazie, buona domenica Matteo Salvini. Buona domenica.